Ciao, sono Chiara, sono una content creator e giornalista freelance e lavoro soprattutto con organizzazioni culturali e piccole aziende. Perciò da quando è iniziata la quarantena, poiché sono state sospese tutte le attività culturali, sono a casa senza reddito. Oggi vi leggo tre racconti di Gianni Rodari dal mio libro preferito, Il libro degli errori. Buon ascolto. Essere e avere. Il professor Grammaticus, viaggiando in treno, ascoltava la conversazione dei suoi compagni di scompartimento. Erano operai meridionali, emigrati all'estero in cerca di lavoro. Erano tornati in Italia per le lezioni, poi avevano ripreso la strada del loro esilio. Io ho andato in Germania nel 1958, diceva uno di loro. Io ho andato prima in Belgio nelle miniere di carbone, ma era una vita troppo dura. Per un poco il professor Grammaticus li stette ad ascoltare in silenzio. A guardarlo bene, però, pareva una pentola in ebollizione. Finalmente il coperchio saltò e il professor Grammaticus esclamò, guardando severamente i suoi compagni: «Ho andato, ho andato! Ecco di nuovo il benedetto vizio di tanti italiani del sud di usare il verbo avere al posto del verbo essere. Non vi hanno insegnato a scuola che si dice sono andato?» Gli emigranti tacquero, pieni di rispetto per quel signore tanto per bene con i capelli bianchi che gli uscivano da sotto al cappello nero. Il verbo andare, continuò il professor Grammaticus, è un verbo intransitivo e come tale vuole l'ausiliare essere. Gli emigranti sospirarono. Poi uno di loro tossì per farsi coraggio e disse: «Sarà come lei dice, signore. Lei deve aver studiato molto. Io ho fatto la seconda elementare, ma già allora dovevo guardare più alle pecore che ai libri. Il verbo andare sarà anche quella cosa che dice lei, un verbo intransitivo. Ecco, sarà un verbo intransitivo. Una cosa importantissima, non discuto. Ma a me sembra un verbo triste, molto triste. Andare a cercare lavoro in casa ad altri, lasciare la famiglia, i bambini.» Il professor Grammaticus cominciò a balbettare. «Certo, veramente. Insomma, però, comunque si dice sono andato, non ho andato, ci vuole il verbo essere, io sono, tu sei, egli è», disse l'emigrante, sorridendo con gentilezza. «Io sono, noi siamo. Lo sa dove siamo noi con tutto il verbo essere e con tutto il cuore? Siamo sempre al paese, anche se abbiamo andato in Germania e in Francia. Siamo sempre là e là vorremmo restare e avere belle fabbriche per lavorare e belle case per abitare». E guardava il professor Grammaticus con i suoi occhi buoni e puliti. E il professor Grammaticus aveva una gran voglia di darsi dei pugni in testa e intanto borbottava tra sé: «Stupido, stupido che non sono altro. Vado a cercare gli errori nei verbi, ma gli errori più grossi sono nelle cose». Italia piccola. Una sera il professor Grammaticus correggeva i compiti dei suoi scolari. La domestica gli stava vicino e lavorava ininterrottamente a far la punta alle matite rosse, perché il professor Grammaticus ne consumava moltissime. A un certo punto il professore dette un grido altissimo e balzò in piedi con le mani nei capelli, gridando: «Bollati, bollati!» «Che cosa ha fatto ancora il signorino Bollati?» domandò la domestica. Essa oramai conosceva tutti gli allievi per nome e cognome, sapeva quali fossero gli errori preferiti di ciascuno e non ignorava che gli errori di Bollati erano sempre terribili. «Ha scritto Italia con la lettera minuscola. Ah, ma questa volta lo denuncio ai carabinieri. Posso perdonare tutto a tutti, ma non una simile mancanza di rispetto per il proprio paese.» «Già», disse la domestica con un sospiro. «Che cosa vorresti insinuare con quel già?» «Signor professore, una povera domestica come me cosa vuole che sappia insinuare? È già tanto se so stemperare le matite.» «Però hai sospirato.» «Da un certo punto di vista sì. A guardar bene.» «Sicuro!» urlò il professore. «Ora starò qui a guardare questa minuscola e a forza di guardarla diventerà una maiuscola da sola. Dammi quella matita, ci voglio fare tre fregnacci rossi di quelli storici.» «Dicevo», riprese con pazienza la domestica, che forse il signorino Bollati ha voluto alludere.» «Sentiamo, sentiamo, siamo alle allusioni adesso, presto saremo alle lettere anonime.» A questo punto la domestica, che aveva il suo orgoglio, si alzò, si scosse il grembiale dai trucciolini della matita e disse: «Lei non ha bisogno del mio parere, buonasera.» «No, aspetta. Parla, sono tutto orecchi, ma parla, di' chiaramente il tuo pensiero.» «Insomma, non si offenda. Forse che non c'è un'Italia piccola, minore, dimenticata da tutti.» Certi paesini dove non c'è il dottore, non arriva il telefono, certe stradine dove possono passare solamente i muli, certe povere case dove bambini, galline e porcellini dormono tutti insieme per terra. Ma che cosa vai dicendo? Mi lasci finire. Io dico che c'è quest'Italia minuscola, quella dei vecchi a cui nessuno pensa, dei ragazzi che vorrebbero studiare ma non possono, dei villaggi dove sono rimaste solo le donne perché gli uomini sono emigrati tutti. Il professore stavolta ascoltava in silenzio. Ecco, forse il signorino Bollati pensava a queste cose, a questa gente, e non se l'è sentita di dare la maiuscola a... Ma è proprio questo l'errore, sbottò Grammaticus. C'è ancora questa Italia piccola, ma io trovo che sarebbe ora finalmente di dare la maiuscola anche a lei. La domestica sorrise. E allora faccia così, ci metta la maiuscola, ma non ci faccia i tre fregnacci. Apprezzi le buone intenzioni del signorino Bollati. Chissà poi se le aveva queste buone intenzioni. La domestica tornò a sedersi sorridendo. Era sicura oramai di aver salvato un bravo ragazzo da un brutto voto e chissà dagli scapaccioni di un babbo nervoso. E riprese tranquillamente a far la punta alle matite. Chi comanda? Ho domandato a una bambina. Chi comanda in casa? Sta zitta e mi guarda. Su, chi comanda da voi, il babbo o la mamma? La bambina mi guarda e non risponde. Dunque, me lo dici? Dimmi chi è il padrone. Di nuovo mi guarda perplessa. Non sai cosa vuol dire comandare? Sì che lo sa. Non sai cosa vuol dire padrone? Sì che lo sa. E allora? Mi guarda e tace. Mi debbo arrabbiare? O forse è muta la poverina? Ora poi scappa addirittura, di corsa fino in cima al prato, e di lassù si volta a mostrarmi la lingua e mi grida ridendo. Non comanda nessuno, perché ci vogliamo bene.